10? Hola? C'è qualcuno sul 10? Chi sei? Avanti. Attento al canale 10, CQ10. E senti, Roberto da questa parte, chi sei? Scusa, non ho capito chi sei, se vuoi ripetere. 7,5 al QRM, molto basso di segnale, c'è QRM che ti copre. Purtroppo non riesco a capirti quello che dici. Ti porti appresso il QRM. Il segnale è 7, però la radio è quasi incomprensibile. Se riesci a fare qualche miglioramento, prova un po'. Sì, non ho capito chi sei, ho capito adesso, mi senti, però non ho capito chi sei. Parla più lentamente. Adesso ti ascolto un po' meglio, però se vuoi ripetere il nome non ho capito. Sì, Giuseppe D'Alghero. Tu come mi ascolti, Giuseppe? Purtroppo c'è molto QRM, pur questa giornata un po' critica. Carica di elettricità magari ti peggiora troppo il segnale, perché il segnale è 7, non è basso, però il QRM siamo allo stesso livello. Non puoi fare meglio, diciamo, aumentare qualcosa? Ah, ma è che stavo questo modulato, Sassari, città di Sassari è zona alta, diciamo vicino allo stadio. Questo passaggio è stato più comprensibile. Ti do sempre il Santiago 7 con picchi positivi. Se mi vuoi dare conferma un rapporto di segnale anche tu. No, dico, la radio è chiara, mi senti bene o mi sto portando appresso anche io dei disturbi? Purtroppo non riesco a capire tutto il coso, ti sento che parli, però la radio è anche forte, però c'è sempre questo disturbo che ti porti appresso, non riesco a sentire tutta la conversazione. Sì, adesso ti ho sentito un po' meglio. Come sono le tue condizioni di trasmissione, che antenna utilizzi? Le tue condizioni di trasmissione, antenna e apparato? Sì, sì, ho capito. No, adesso questo passaggio si è andato molto meglio. La radio non ti do 5, ma 3 si può dare tranquillamente. È strano che ad Alghero normalmente mi arrivano tutti i segnali di 9, probabilmente tu sei in una zona un po' chiusa verso di me, magari, e non lo so. Che zona sei di Alghero tu? Non ho capito, ho sentito che mi ha detto che anche qualcun altro ti riceve un po' bassino, perché io e Claudio siamo le posizioni più favorevoli per Alghero, lui è ancora meglio di me perché è più in alto, però stranamente io li ho sempre ascoltati 9 e anche di più ad Alghero. E adesso è cambiato totalmente, Santiago 8 positivo, radio qua, riprova un altro passaggio, assolutamente, sei quasi 9 adesso il segnale. Ok, non ho capito, però non mi ha dato un rapporto sia di radio che di Santiago. Poco fa nel passaggio precedente non ho capito bene, se vuoi ripetere. E Santiago, il segnale, che segnale ho e la radio se è comprensibile? Ok, l'importante è che riesci a capire la cosa, la radio, che sia, poi il segnale è relativo, l'importante è che si senta comprensibilmente la modulazione. Più o meno come il tuo, 8 abbondanti, dai, tendente al 9, sì. Ma qua hai cambiato apparato o solo aumentato? No, assolutamente è buona la radio, nel senso molto chiara, magari non ti do 5 piena, però la radio è bella corposa, diciamo, la modulazione è pulita, non c'hai carenze di tonalità, mi piace come modulazione. Purtroppo il segnale ti porta presso un po' di disturbo, per cui non ti do il 5 pieno, ma la radio da 3 è portata anche a 4, ti posso dare. Dov'è Sant'Agostino? Dimmi un po' la zona, perché non è che sia molto pratico. Io conosco la Pietraia, poi zona Calabona, zona Lido, e poi dov'è Sant'Agostino? Spiegami un po', la Mercedes, quelle zone lì. Per via, scusa? Ah, ho capito, sì. Per cui c'è un po' la montagna, un po' che ci ostacola. Perché avevo quelle della Pietraia, arrivava una bomba qua, anche 9-10 arrivavano, con potenze limitate, senza salire di potenza. Tu probabilmente c'è quella montagnetta che è un po' la collina che ti intralcia verso di me. Dimmi una cosa, che microfono stai utilizzando? Cos'è, un MB+5 quello? No, cavolo, allora stai andando alla grande, considerando che un microfono, non dico eccelso, però la modulazione è molto chiara e potente, diciamo, considerando che siamo abbastanza lontani, ti sento molto forte di modulazione. Ma probabilmente ci siamo già sentiti, non voglio parlare dell'età, ma sei una persona di una certa età, se stiamo parlando della stessa persona, confermi? Sì, allora ci siamo sentiti altre volte. No, Claudio è una persona che aiuta, dai, è un appassionato da una vita qua, anche a me mi ha dato tanta buona esperienza, diciamo, mi ha trasmesso le sue esperienze e mi ha fatto fare anche a me piano piano i passi da piccolo a un pochettino più grande, non dico grande, è un po' più grande. Ok, sono contento che hai ripreso la passione. Dai, tu da tanti anni che non modulavi. No, dico, tu mi hai detto sei un vecchio CB, ma eri anni che non modulavi, da tanti anni hai ripreso adesso o che cosa? Ok, ho capito, no, è una bella passione. Io diciamo l'ho un po' abbandonata, c'è stato l'entusiasmo iniziale, io sono da recente, anche se sono appassionato da bambino di baracchini e cose del genere, però dal 2004 che ho iniziato a parlare recentemente, diciamo, a farmi ascoltare e avere qualcosa un pochettino di più sofisticato. Poi ho fatto diversi anni, poi negli ultimi tre anni, dai, per motivi personali è un po' diminuito. E purtroppo, visto che c'è un po' di abbandono, da quando c'è internet, me compreso, diciamo internet ti impegna un po' di più, nel senso la novità c'è stata, qualche comunicazione magari un po' internazionale, con altri punti che magari con la radio verrebbe male a farlo, qualche conoscenza si fa con questi sistemi tipo Facebook o cose del genere, qualche amicizia nuova si è fatta, però la radio ha sempre un fascino diverso, perché sentire o fare un collegamento a lunga distanza e sentire, dice oggi ho collegato gli Stati Uniti, l'Argentina o cosa posso dire, la Francia, il Belgio o qualunque altra, è sempre una bella soddisfazione. Sì, diciamo più semplice, nel senso che non hai necessità di grandi apparecchiature, basta una linea telefonica e un computer o anche un telefonino e colleghi qualunque parte del mondo e ascolti qualunque cosa del mondo, dalle televisioni alle radio, puoi far tutto. No, è sempre stata una passione la mia, diciamo soprattutto io ho sempre fatto ascolto, mi è sempre piaciuto ascoltare tutto il possibile e l'immaginabile. Ho iniziato dalla radio, poi per parlare con i satelliti ho avuto anche un discreto impianto satellitare, anche se ormai col discorso del digitale c'è già migliaia di canali, ma quando l'ho aperto io il discorso satellitare ero diciamo all'avanguardia, un impianto motorizzato 20 anni fa non ce l'avevano tutti. Sì, ma la passione ce l'aveva tanti anni, dico, della radio. Alghero purtroppo non ne sento più, c'erano degli amici, delle care persone, diciamo, che non ho conosciuto di persona, però abbiamo fatto delle belle chiacchierate, purtroppo non li ho più sentiti, anche vabbè, diciamo sto entrando poco io, però ho chiesto anche qua in frequenza a quelli che ci stanno più assiduamente, mi hanno detto qualche persona di quelli che ho nominato io dice non l'hanno più sentito. Io parlavo tanto che era un tecnico, credo, di laboratorio con un certo Carlo, che non mi ricordo come si chiamava di nominativo. Poi c'era Pinangelo, stesso una persona simpaticissima, era una risata diciamo quando c'era lui, perché sempre raccontava, eccetera. Poi c'era quell'altro, come si chiama, Cavallino, che poi mi hanno detto purtroppo è morto, quello lì, e poi altre persone, diciamo radioamatori, qualcuno parlava. Poi c'erano, molte volte parlavo con quegli amici col peschereccio, che non mi ricordo, erano padre e figlio, ma se mi dici il nome non mi ricordo, li accompagnavo fuori capocaccia, ci abbiamo fatto delle belle chiacchierate, dai. No, vabbè, non solo d'estate, anche d'inverno abbiamo parlato, naturalmente se c'era mare è decente, se c'è mare brutto, tipo come può esserci oggi, non penso che te ne vai fuori col peschereccio, poi ci sarà anche il fermo biologico, mi immagino che qualche mese chiuda la pesca. Io abito nella zona alta della città, diciamo se sei pratico dove c'è i vigili urbani, i vigili del fuoco, quella zona lì un po' più su. È l'ex Fiat diciamo, dai. No vabbè, io sono più su di quella lì a Roma, dall'altra parte, verso su il sanatorio, l'ex sanatorio, te lo ricordi, il Conti? Hai detto bene, è proprio lì, hai nominato bene la zona precisa. Sono in linea d'aria da Claudio, saremo a 300-400 metri, lui è appena appena più su di me, non so se sai dove abita Claudio. Sì, no, io mi ricordo poi quando mi ha dato conferma dell'età, poi mi ha detto che conosci bene a Claudio, di lì ho ricordato un paio di volte ci siamo sentiti, anche se ti devo dire una cosa, facendo le conto mi hanno detto che era una persona col tuo nome ad Alghero ed è deceduto di recente, e ho pensato a te, grazie a Dio non sei tu, perché me ne hanno parlato tempo fa, dice, con la persona, col certo Giuseppe di Alghero, ma io pensavo fossi tu, magari sarà un altro Giuseppe, buh. Sì, vabbè, mi immaginavo anche io, Roberto, il nome di battesimo, nominativo è quadrato, il nominativo di banda cittadina, e il tuo nominativo invece di frequenza. Ah, non ti ricordi il tuo nome, come ti chiamavano gli amici della ruota. Ma dimmi un po', tu sei anche radioamatore? No, ho detto se tu sei un ex radioamatore. Ho capito, quindi c'hai una discreta esperienza. Diciamo ce ne sono più di uno di Franco, probabilmente è lui, ce ne sono un paio che stanno in quella zona lì, dai. Ma scusa se vuoi dirlo, se no lascia perdere, è nell'arma per caso, reparto radiocomunicazioni o che cosa? Non ho capito, scusa. Sì, ho capito, però quello, se vuoi rispondere naturalmente mi riferisco alla tua attività, tu eri nell'arma, magari nel reparto delle comunicazioni o con altro genere di lavoro? ho capito, sempre in campo ministeriale stiamo parlando. Quindi, ma tu sei un tecnico quindi? Va bene, dai, buona sorpresa, dai, Mario, se c'è qualche informazione e qualche esperienza che puoi trasmettere, diciamo, se abbiamo qualche dubbio, sappiamo che anche tu qualcosa hai fatto, dai. Scusa un attimino Giuseppe, che ha salutato Gianni, che probabilmente rientra da Mototore, se non so se tu lo ascolti, io l'ho ascoltato, lo saluto un attimino e poi mi ripeti quello che hai detto. Ciao Gianni, buonasera. Ah, scusa Eugenio, assomigliavi a Gianni come modulatore. Non so se ascolti a Giuseppe D'Alghero, ti rilancio il mic. Sì, grazie Eugenio, ti ricambio gli auguri, anche magari da parte di Giuseppe, lui non credo che ti ascolti come non ascolti tu, e di tutto quello che desideri, a te in famiglia. Giuseppe, puoi riprendere. Sì, sì, glielo ho riferito. No, no, non ti ascolta, me lo immaginavo, perché arriva a basso anche a me, lui è, non è portatore, se peggio che mai, di lì arrivare ad Alghero. Ok, no, vabbè, stavamo parlando del tuo lavoro, mi hai detto tu ti occupavi di strumentazioni, quindi mi ha detto. Sì, no, ma tu hai parlato di campo telecomunicazione, sono due campi diversi, dall'edilizia alle comunicazioni. Ho capito, ho capito. Vabbè dai, buona sapessi, come ho detto prima, sono sempre cose interessanti avere delle compagnie, delle persone che hanno fatto dei lavori che poi magari ti possono dare le loro esperienze e informarti di qualcosa. Io faccio tutt'altro lavoro, io mi occupo di riparazioni e automobili invece. Allora io devo darti una tiratina all'orecchio, dai, come si dice, perché questo fatto dei costosi è una moda, una mania che hanno verso i carrozzieri, io non so per quale motivo, perché non è così assolutamente. Purtroppo c'è da dire che c'è crisi totale, e soprattutto nel settore delle automobili, sia i carrozzieri, soprattutto i meccanici. Noi i prezzi nostri sono invariati già da diversi anni e ti posso garantire che su un lavoro di 1000 euro l'80% sono i ricambi, il 20% è la manodopera. Sì, quello è vero, naturalmente poi ci sono le macchine che se le fanno pagare profumatamente, soprattutto macchine straniere e soprattutto le macchine molto lontane, parliamo le Jeep, macchine così costano più del normale. Le giapponesi un po' si stanno uniformando, diciamo, per i pezzi principali di grande consumo sono nella media, però se vai a comprare qualche particolare interno, certo un fare un parauti lo paghi mediamente come le macchine europee, però se vai a comprare un pezzo interno, guardate, posso dire una maniglietta, un pezzo di plastica, una moda natura, guai, ti fanno nuovo. Ma non è neanche proprio così, perché molte di queste aziende giapponesi o coreane che siano, molti pezzi vengono prodotti qua in Europa e qualcuno anche qua in Italia, perché se parliamo di fari e di paraurti, la cosa, la Magneti Marelli, la Siemens, sono tutti marchi italiani e producono per tutto il mondo, per cui non è neanche vero quel discorso, però ne approfittano, diciamo, quelli di grande movimentazione per farsi vedere belli, ti danno anche il prezzo molte volte più basso di quello della Fiat, però se vuoi vai a comprare, ti posso dire, una maniglietta interna dello sportello che costa 3 lire e te la fanno pagare una cifra fuori mercato. Quindi nel campo della difesa parliamo. Ah, ho capito, ho capito. Mio cugino, vabbè, tu ci manchi forse da tanti anni, però mio cugino è andato in pensione 2 anni fa, lui era capostazione, era nella zona di Chilivani, era il capo, diciamo, del discorso della distribuzione di Chilivani. No, ti posso dire anche il cognome, Salaris si chiamava, e c'è anche la moglie lavora qua a Sassari. Lui si occupava della merci, di tutte le merci. Ah, poi ne conosco anche altre persone, dai, oltre alla moglie, lavora qua a Sassari, non so se sia già andata anche in pensione, forse con quest'anno va in pensione, c'era quell'altra Solina, non so se l'hai conosciuta. Poi non so se l'hai conosciuto, buonanima, l'hai, Bruno Lai l'ha conosciuto, però guidava i treni lui. Poverino, ha fatto una brutta fine. E poi ho tanti amici nelle ferrovie della Sardegna che lavorano o hanno lavorato anche di lì. Franco Mazzola, che vabbè, forse è troppo giovane rispetto a te. Ma lo immagino, diciamo, tu mi ci manchi da molti anni, dai. Probabilmente quelli non erano ancora entrati. Però mio cugino penso che era già detto, perché mio cugino è andato in pensione, ti ho detto, 2 anni fa, per cui una 30ina d'anni se li ha fatti abbondanti. Sicuramente l'hai conosciuto a lui, anche se Maria aveva altre mansioni. Comunque, ma una domanda adesso, visto che stiamo parlando di radio, le comunicazioni tra treni e stazione vengono fatte via cavo o via radio? Come via rotaia? Scusa, ripeti. No, forse non mi sono spiegato. Allora, usavano delle radio che trasmettevano il segnale via radio, via etere, oppure via cavo, cioè utilizzando una linea elettrica o qualunque altro sistema. Cioè, il segnale attraversava le rotaie. Sì, ma stiamo parlando di segnali elettrici o stiamo parlando di voce? Sì, via rotaia, cioè utilizzavano al posto del cavo coassiale, quello che utilizzavano normale, il cavo telefonico, utilizzavano la linea in metallo per trasmettere la radio, la modulazione. No, non sapevo una cosa del genere, perché deve avere due polarità, chiamiamolo volgarmente, per la trasmissione. Come fanno? Non riesco a capire. E quante comunicazioni contemporanee riescono a fare? Non lo so, una novità, non sapevo. Quindi anche a lunghe distanze. Sì, ho capito, io posso capire la logica di un segnale elettrico, è come un relè che gli dà l'impulso, tac, si fa scattare, però come fai a parlare, a sentire la voce, non riesco a capire. E dimmi una cosa, su che frequenze lavorano queste ferrovie, se si possono dire? Le frequenze che venivano utilizzate con questo sistema di trasmissione, che per me è una novità, su che frequenza lavoravano? Sì, no, frequenze 300, 400, cos'era la frequenza? Non ho capito. No, non voglio sapere, scusa, non voglio sapere la frequenza esatta, io sto parlando se era i 500, i 600, i 40, le mega, se parlo di quello, non mi dire la frequenza esatta, non mi interessa. Io parlo a livello di generico, i 100, i 200, i 300 mega. Ma nei giga siamo o più in basso? Quindi frequenze molto più alte. No, sono per sapere. E tra l'altro non sono ricevibili con un'apparecchiatura normale, perché se sono via cavo non puoi neanche ricevere. Sì, no, quello non è dubito, sicuramente ci saranno dei sistemi protettivi assoluti, no? Se no, a parte i dialoghi dei macchinisti che potrebbero non interessare a nessuno, però se devi far funzionare uno scambio deve essere una cosa certa al 1000 per 1000. Sì, ho capito. E dimmi un po', la modulazione, tu sicuramente avrai parlato, la modulazione è superiore come qualità rispetto a questa che stiamo utilizzando noi, è più fedele, come telefonica. Quindi però, diciamo, è sempre comprensibile, non è di quella paperina, tipo molte volte su certi telefoni che si sente che sembra la voce di paperino. E non è influenzabile naturalmente dal tempo e dalla distanza, perché è via cavo, per cui non hai nessuno, tipo la filodiffusione, non hai disturbi esterni. No, vabbè, naturalmente deve essere una cosa, visto che ne vale la pelle delle persone. Solo molte volte purtroppo succedono queste cose, che magari non funzionano a passaggio a livello, uno scambio, uno passa con rosso, l'errore umano c'è sempre. Sì, ho capito, però siccome la rete magari non è tutta cablata, fatta nei migliori sistemi più moderni, diciamo, come è successo qualche anno fa quel treno che si sono scontrati quei due treni a Bari, dove era in quella zona lì, non so se ti ricordi, di lì era, dice, un pezzo di linea che era ancora di 40 anni o 50 anni fa. Sì, aspetta un attimino, prendo la carta. Io sono pronto, è diritto di che genere? No, io non ho parlato Canica, io ho parlato qualche anno fa, credo 2 o 3 anni fa, più o meno forse era d'estate, c'è successo nella zona di Bari, diciamo Bassa Italia, uno scontro tra due treni carichi di passeggeri, ci sono stati diversi morti. Dico, e in quel pezzo lì la ferrovia, dice, non era cablata nel migliore dei modi, diciamo con le nuove concezioni, per quello magari c'è stato qualcosa e ci sono scontrati i treni. E cosa trovo? E quando è successo questo incidente, ricordami? Ci sono stati dei morti? Sì, ma cos'è successo? Spiegami, non ho capito, c'è stato un incidente? Sì, ho capito. Ai giorni d'oggi una cosa del genere è impossibile, perché se si muove un treno c'ha dei transponder e si viene subito comunicato alla centrale. Sì, ho capito. Sì, vabbè, in questo momento non posso farlo, ma in un altro momento, più tardi, magari da un'altra parte provo a vedere, poi magari ci risentiremo e ti faccio sapere, dai. Ho capito. Poi ce n'è stata anche uno da poco, qualche anno fa, nella tratta dopo Codrongiano, sotto Frolina, su qualcosa è successo una frana, Frolina, dopo il cementificio, la cementeria, di lì sotto passava il treno, si è crollata un pezzo di coso, di montagna. Diciamo, le nostre rotaie sono ancora di quelle della Seconda Guerra Mondiale, almeno, forse hanno messo questo treno nuovo che già alla prima uscita si è bloccato. Vabbè, ma il continente c'è con Freccia Rossa, tutte queste cose così, ci sono i sistemi di coso, rettilini che non finiscono più qua in Sardegna, con tutto il giri che fanno i treni, non so dove possono arrivare a quelle velocità. Perché se vai a Olbia è diversa la musica. Magari il pezzettino di Oristano, nella piana di Oristano, se arrivare a Cagliari di lì probabilmente viene un po' meglio, però tutto il pezzettino dell'Inderland del Sassarese e della cosa dell'Imbara, diciamo, della Gallura, lì è un po' problematico a raggiungere quella velocità. Non riescono a fare la strada, a finire la strada di Urda. Io ogni anno ci passo decine e decine di volte, adesso hanno aperto 12 km, ma c'è quel pezzettino prima di Uschi, di Berchida, di lì è tutto roccia, di granito, cacchio. Prima di finirla quella strada, prima di finirla a giugno 2018, secondo me ci vorranno altri 10 anni quel pezzo. Guarda, io dico una cosa, ho letto la storia dell'autostrada del Sole, è stata l'autostrada del Sole, non so se lo sai, è stata la prima autostrada al mondo, almeno il primo tratto, poi successivamente ne hanno fatta da tutte le parti. Il primo tratto, non so se era 100 km o qualcosa del genere, è stata la prima autostrada del mondo. Per concludere l'autostrada del Sole, parliamo senza considerare la Salerno-Reggio Calabria, quel pezzo là, ci hanno messo 5 anni, hanno lavorato non so quante persone e quante ditte hanno lavorato, ogni 5 km c'era una ditta diversa, e in 5 anni hanno fatto non so quante migliaia di chilometri. Questo cacchio di strada di Urbia, che sono circa, effettivamente sono 90 chilometri, anche se adesso sono 110, effettivi il percorso sono circa 90 chilometri. Quanti anni la stanno facendo? In meno di un anno. Hai detto bene, c'era, prima di tutto non c'era questo giro di mangiatoia che c'è adesso, che ci sono subappalti, giri e cose strane, poi non bastano i soldi, bloccano, eccetera eccetera. Prima la musica era tutta diversa, ma tutte le costruzioni, io vado spesso fuori da trovare una persona in un'altra nazione, che tra l'altro non è neanche nella comunità europea e noi la consideriamo molto arretrata, che se tu ci vai non ti faccio nome e cognome della nazione, però è una nazione emergente. Io sono rimasto a bocca aperta, in 3 mesi hanno costruito, non costruito, la piazza esisteva già, una piazza sarà 4 volte Piazza d'Italia, l'hanno tutta, come si chiama, pavimentata con una specie di granito, non so che cavolo di materiale è, tipo travertino, non so, fatti conto, Piazza d'Italia è un ettaro, questa è 4 volte più grande, con la curvatura, non è perfettamente in piano, leggermente curva, come sotto, sotto hanno costruito un parcheggio enorme per tutta la grandezza della piazza, ci hanno messo 3 mesi per farla. Io quando ho visto lavorare gli operai a mezzanotte, tutte le ore del giorno, mattina, di giorni di festa, di coso, sono rimasto a bocca aperta. Qua il venerdì è già tutto chiuso, tutto bloccato, riprendono il lunedì piano piano, eccetera. Lì lavoravano 24 ore su 24, in 3 mesi hanno costruito una piazza con i parcheggi sotterranei. Allora sto dicendo, è una cosa allucinante, a parte, non parliamo della burocrazia, perché se tu adesso c'è una casa dentro casa tua e vuoi aprire una porta dentro l'appartamento tuo, in burocrazia non ti bastano dai 3 ai 5 mila euro tra il progetto del coso e le spese di coso, burocratiche, non parliamo delle spese di coso, del muratore, magari con 500, 600, 800 euro ti apre una porta, ti fa la cosa, te la cavi, ci vogliono dai 3.000 ai 5.000 euro adesso attualmente per fare un'operazione del genere, per aprire una porta a casa tua. È una vergogna, è guai se la porta o la finestra è in facciata, in zona visibile, tanto male, dico, di lì che ti costruisci un appartamento nuovo. Sì, no, ma siamo solo in Italia e io ho visto, non so se ti capita mai, con la trasmissione Report, hanno fatto un confronto tra la burocrazia italiana e la burocrazia tedesca, e i tedeschi non penso che siano più imbecilli di noi a livello di sicurezza e cose del genere. Tu fai tutto dichiarazioni personali, dichiari che tu adempi a tutti i decreti, le leggi di edilizia, eccetera eccetera, di sicurezza, eccetera eccetera, fa una dichiarazione e te ne prendi le responsabilità. Se appena appena loro ti trovano che tu hai messo una vite messa di come la dovevi mettere, ti ci mettono dentro. Non è come in Italia, cacchio, in Italia ci vogliono 3 anni per farti fare le autorizzazioni e cose del genere, e poi puoi fare gli abusi e tutto quel cacchio che ti piace, poi tanto ci sono i condoni. Guarda, io avevo un professore alla scuola, buonanima, famosissimo qua a Sassari, perché è stato anche in politica, lui ha detto, noi siamo i più grandi furbi e venditori di fumo del mondo. Lui italiano, ha detto da italiano, ed è vero, noi mettevamo, dice, gli italiani quando vanno a vendere le mele, ti mettono tutte le belle mele sopra, belle, tutte, e sotto ti mettono quelle brutte. Siamo i più grandi venditori, però la gente piano piano se ne è accorta e sta andando in altri mercati, ci siamo bruciati da subito. Assolutamente d'accordo, e anche adesso ce ne stiamo prendendo le spese, perché adesso le aziende italiane, perché avevamo delle aziende enormi, a parte tutto quello che c'è stato per farle fallire eccetera eccetera, stanno ritornando, i piccoli artigiani, le piccole attività, e piano piano sta ritornando, non dico il boom economico che c'è stato negli anni 60 e gli anni 70, però piano piano stiamo riprendendo pregio, soprattutto in campi dove eravamo leader di mercato. Non parliamo degli elettrodomestici, che cacchio è una vergogna che i turchi, andiamo a comprare in Turchia i cose, i frigoriferi e le lavatrici noi, dopo che li abbiamo insegnato a tutto il mondo come si fa. Adesso questo cavolo di becco turca, che credo che ci sia qualche giro strano magari di qualche ditta italiana che per questione di tasse se è andata lì, sta sfondando il mercato, da ogni angolo trovi il becco. E vabbè, diciamo un'altra cosa, no, adesso purtroppo, e ce ne stiamo rendendo conto, noi da quando siamo entrati nell'euro l'Italia è morta. Qualcuno dice ci abbiamo guadagnato, non è così, io non sono convinto. Io all'inizio magari ero fiducioso, ci dà stabilità di moneta, assolutamente no. E non si dice, però se tu ascolti le persone di un certo coso che non censurano, noi l'Italia compra moneta, tu compri 100, non puoi stampare moneta perché deve avere tramite la comunità europea, non è che uno si sveglia la mattina e si mette a stampare soldi, prende 100 euro l'Italia e deve darne 106 alla comunità europea, questi 6 euro in più, fai conto il 6%, è a carico della comunità italiana. Noi abbiamo un debito di 6% verso la comunità europea, che se lo paga lo Stato italiano, è così detto i cittadini. Ma guarda, io sono uno che mi informo, che ascolto, leggo tantissimo, ci dicono tante cose. Io ero all'inizio un po' contrario quando si parlava di uscire dall'euro. Ho letto e ho ascoltato, soprattutto ho visto, ho detto di grandi economisti, se noi usciamo dall'euro l'Italia rinasce. Prima di tutto magari non avremo all'inizio la stabilità della valuta, nel senso ci sarà un'inflazione alta, però ci sono stati paesi tipo l'Argentina che erano in crisi profonda, che piano piano si stanno riprendendo. Noi, se noi togliamo l'euro e togliamo la lira, abbiamo la possibilità di emettere moneta, noi magari l'inflazione sarà un pochettino più alta rispetto a quella che potrebbe essere con la situazione attuale, però i prezzi diminuirebbero tantissimo prima di tutto, e poi verrebbero a comprare da fuori correndo, perché la Germania morirebbe in un paio di anni perché non potrebbe tenere i costi che abbiamo in Italia. E vedi che la musica ha cambiato talmente e rinasce l'Italia. Guarda, io provo a fare una chiamata generale, magari qua da Sassari riescono ad ascoltarmi meglio di quanto possono ascoltare a te. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare e partecipare alla conversazione, se no fate come volete. Salvo che non senta Claudio, perché Claudio c'è sempre, almeno sicuramente. Anche ieri ho fatto un paio di chiamate, ieri avanti ieri, ma non ho sentito nessuno. E ho detto vediamo un po', oggi ho provato, mi hai risposto tu, dai, sono contento, almeno qualche mezz'oretta di conversazione interessante si è fatta. Principessa Yolanda, aspetta, la c'è, sì, ho capito, vabbè. Io non ti dico nome e cognome di me perché non mi piace vantare, noi siamo i più anziani in assoluto. Allora, la principessa Yolanda, di lì, vicino al Fosso della Noce, stai parlando. Allora, una delle primissime, tu stai parlando del maestro di mio padre probabilmente, un certo Pireddu, che è stato il primo, quello ha iniziato dalla guerra a fare il carrozziere, diciamo a ricostruire con pezzi di lamiera e fare, era un grande maestro. Quello lì è stato il maestro di mio padre. Mio padre ha iniziato a lavorare a conto suo dal 1955 e noi stiamo proseguendo l'attività di mio padre. Sì, sicuramente, adesso guarda, non ho modo di parlare qua, perché se capita la male di incontrarci ti racconto proprio il discorso del pallone, non voglio dirlo qua per non fare pubblicità, perché lui c'entra molto col pallone. Sì. Tu sicuramente se hai masticato a casa, riconosce quella bene, hai conosciuto anche mio padre. E poi la famiglia, il verniciatore, avrà conosciuto anche Cabras. Come? Non ho capito, ripeti? Tu c'hai qualche anno in più di mio padre ne ha fatto 84 e tu ne devi fare 89, per cui siete più o meno coetanei e sicuramente vi siete conosciuti. Appunto, tieni presente che una persona che hai nominato tu, il nipote che si chiama con lo stesso nome, lavora da noi. allora quella persona che hai nominato tu tra l'altro è morto, e il padrino era il padrino di mio padre, per cui tu lo conosci sicuramente a mio padre, non diciamo altro perché meglio non fare troppa pubblicità, però hai nominato tante persone perché mio padre ha iniziato dalle biciclette, ha detto bene, dalle biciclette poi a fare anche, prima da bambino a 6-7 anni ha fatto il barbiere, il ragazzo barbiere diciamo, dopodiché ha iniziato con le biciclette come hai detto tu e poi ha lavorato da quella persona che ha detto prima, Piredo eccetera, e Abis, e poi ha lavorato a conto su. Il mondo è piccolo, come si dice. Tu sicuramente a mio padre l'hai conosciuto, visto che siete quasi coetanei. E sì, probabilmente tu. A me mi racconta sempre un altro, mi ha raccontato sempre un altro di mio padre, da quella persona in quel fosso della noce, c'era una balilla, una Fiat balilla. Sono andati in 6 a prenderla questa balilla, per spingerla perché non aveva possibilità di camminare. Non ce l'hanno fatta, questa persona Piredu che ti ho detto io, ha preso la sua moto, il sidecar, una di queste moto col sidecar della guerra, attaccato al sidecar, non so se era un BMW, una di KV, adesso non mi ricordo che moto era, comunque la moto tedesca, l'ha agganciata la balilla dietro, si sono seduti in 6 e ha portato tutti su per dire che moto era. E mio padre l'aveva portata su, sono andati a spingere, io ho anche le fotografie di quella famiglia che c'era lì, perché hanno lavorato i più importanti carrozzieri e verniciatori, e mio padre era quello che teneva tutta l'officina all'epoca di quella persona che era tutto questo signore qua, era lui, se ne partiva, vabbè diciamo ha avuto una vita un po' sregolata, se tu lo sai. Ehi, ai carburo ti stai riferendo? Giuseppe, hai sentito, al carburo, mettevate il carburo o l'acqua? Da rosso infatti si scoppiava, faceva, oh, le macchine erano alimentate a carburo, quando non c'era carburante si mettevano il carburo, c'era la caldaia eccetera eccetera, anche noi quando ero piccolino per fare l'acetilene per saldare si metteva il carburo, un po' di acqua e si formava il gas, ma era una cosa assolutamente instabile e pericolosa. Si andava a comprare, erano dei cose in ferro, in lamiera, pesantissimi, mi ricordo, si andava a comprare, babbo andava a prenderlo, poi le mettevamo un pochettino in questa specie di caldaietta che c'era sotto, si buttava l'acqua, ma ero piccolino io. Ok, comunque il QRM meno male si è abbassato un pochettino. Non lo so, poco fa ho sentito anche gente parlando, io ho acceso un pochettino, si sentivano delle comunicazioni lontane, però non riuscivo a capire chi era. Chi è avanti? Aspetta che qualcuno ha fischiato, avanti chi fischia? Chi sei avanti? Non lo so, guarda se lo ascolti tu Giuseppe, io non lo sento. Giuseppe, mi senti? Come ha fatto? Dimmi una cosa, c'era qualcuno sotto che stava parlando, non vorrei che sia l'altro amico di Alghero, che c'è uno che l'Alghero trasmette in una situazione un po' critica, che magari a te lo ascolti, tu riesci ad ascoltarlo. Aspetta, stava parlando adesso, attenzione chi parlava prima, se vuole parlare più lentamente e magari migliora la situazione di trasmissione, avanti. Ah Michael, sì ho capito, Proaghe, mi ascolti, riesci a tirarmi fuori? Allora qua il segnale tuo è Santiago Sera, radio abbastanza comprensibile di 3, tu mi ascolti bene comunque. Sei in direzione di Sassari o in direzione di Olbia tu? Sì, adesso questo passaggio è stato migliore. Non so se lo ascolti Giuseppe, ma credo di no, perché arriva non tanto forte anche a me. Te lo rilancio, avanti Giuseppe, se l'hai ascoltato. Giuseppe, hai copiato? Scusa, se vuoi ripetere il nominativo, scusa, non ho capito quello di Plague che rientra verso Sassari. Questo passaggio è un po' poco chiaro, dai. Michael, così mi hai detto, ripeti, confermo. Oggi ci vorrebbe Capri 2, che lui quella zona è pulito, riesce a sentirti bene. Stava però che non riesco a ascoltarti, perché io sino a Coso, sino al bivio dopo Zieri e Oschili riuscivo a sentirli, quando c'era Tarzanetto che andava verso Olbia. Vabbè, oggi è una giornata un po' critica per la propagazione, dai. C'è tanta umidità, magari purtroppo non si riesce a sentire. Comunque ti risaluto Michael, se ho detto bene il nominativo. Io qua Roberto da questa parte e Giuseppe dalla parte di Alghero. Io sono di Sassari, sto trasmettendo da Sassari stazione fissa. E ti mando i saluti anche da parte di Giuseppe, anche se lui non ti ascolta. Ok, dai, buon rientro. Giuseppe, riprendi tu. E anche a me stava arrivando bassino, poi in un momento è arrivato Svette, probabilmente in qualche zona un po' critica, perché è strano, di lì arrivano forti, io i segnali li tiravo bene, molto forti, a Claudio lo sentivo quando andavo a lavorare a Perfugas, lo tiravo sino a Perfugas. Ok, e cosa stavamo parlando prima, di qual è l'argomento, ricordami così non perdo il filo Giuseppe. parlavamo di lavoro dell'officina, quindi tu sicuramente hai avuto il piacere o il dispiacere di conoscere mio padre e quella carrozzeria lì. Ci sei Giuseppe, mi hai sentito? Giuseppe, ci sei ancora? No, avevo chiesto se, che il mondo è piccolo, detto, il mondo è piccolo, per cui sicuramente tu hai avuto il piacere o il dispiacere di conoscere quell'officina dove ha lavorato anche mio padre da ragazzo. Allora sicuramente l'hai conosciuto molto bene a mio padre perché era sempre lì, da questo Riccardo. Ho capito. Comunque mio padre, se ti voglio aiutare per ricordare, non ti dico il coso, il cognome, c'ha lo stesso nome di Pireddu, Giovannino. Ok, quindi non so se mi puoi dire il cognome, non lo voglio sapere, magari me lo farò dire da Claudio in verticale, anziché dirlo qua in radio che non è corretto a dire i cognomi, così magari gli mando anche i saluti da parte tua a mio padre e gli dico se si ricorda di te. Ok, va bene. Vabbè, altre cose non abbiamo. Ma tu avevi macchina, hai mai riparato macchina o moto? Cosa avevi tu? Mi ha copiato Giuseppe. E allora dovevi aver conosciuto per forza mio padre, te lo ripeto, l'hai conosciuto come ti avrà conosciuto per forza lui. Sì, ritornando al discorso, ho detto, se hai avuto tu macchina o moto, cosa usavi? Sì, una bella moto la Gilera, la conosco. Chi te l'aveva rifatto il serbatoio? Ma te l'aveva rifatto mio padre? Ok, ho capito. No, io sono un grande appassionato di macchine e moto d'epoca, ne facciamo qualcuna noi, qualcuna neanche io di moto, ne ho fatto una completata da poco, lo dico, te lo ricordi? Ho capito. Vabbè Giuseppe, io adesso ti devo lasciare perché vado a mangiare qualcosa, cioè, è stato un piacere, veramente un bel piacere, ascoltarti, una bella conversazione, abbiamo capito che abbiamo delle amicizie in comune e sono contento di questo. Ehi, dai, curati da parte mia, buon tutto, ciao, se non abbiamo modo di sentirci, perché io domani devo partire, vado fuori, ti faccio i miei migliori auguri di un felice anno nuovo, tranquillo e sereno e ricco di soddisfazioni, dai, ciao.